Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 6 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero. La puntata di oggi è particolare, sarà una sorta di puntata interattiva, nel senso che io vi chiederò veramente oggi tante cose, dovrete rispondere via sms se ne avrete voglia, o non dovrete rispondere affatto, o dovrete così replicare le domande che vi farò alle persone che vi stanno vicine e cercare una risposta, perché giocheremo in tanti modi e vi darò anche dei premi, cioè vi farò avere una parte della collana che è appena arrivata con Il Sole 24 Ore, si chiama I test dell'estate, Q&A, ovvero question and answers, domande e risposte in poche parole. Sono dei libricini con tanti quiz, sono 300 domande ognuna sul cinema, sport, storia, musica, letteratura, galateo, sono veramente molte. Il primo numero è uscito ieri insieme al Sole con soltanto 10 centesimi in più e appunto queste prime uscite che saranno ogni sabato e martedì usciranno insieme al quotidiano a soli 10 centesimi in più, come ho detto. Sono tante e così ne discuteremo oggi, prenderemo in prestito proprio questi libretti e le domande per raccontare i vari argomenti, ma le domande serviranno anche a coinvolgervi. Cercherò di farvele, dovrete rispondere con gli sms e dovrete in qualche modo giocare. Io ho segnato su un foglietto 5 orari diversi. Gli sms, il primo sms che arriverà in uno degli orari che ho segnato si porterà a casa i primi 5 numeri di questa collana, quindi c'è un meccanismo di gioco anche in questo senso. Vi ricordo il numero per gli sms: 349 238 6666. Una puntata che vi vede molto protagonisti, anche perché alle 11.30 ci sarà anche oggi il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta può essere una notizia della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di conosciuto, e gli indizi musicali vi serviranno a risolvere appunto questo mistero. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà, ma si parte da 1000 euro. Potete prenotarvi già da adesso, il numero verde è questo, 800 24 00 24, e visto che sono buonissimo, vi faccio ascoltare il primo indizio di questa settimana. Le voilà, mio Eccolo qua, canzone molto famosa che avrete sicuramente riconosciuto. 800 24 00 24 per prenotarvi per il mistero in 24 minuti e preparatevi anche a giocare. Ah, vi dico cosa avete bisogno: avrete bisogno anche degli oggetti oggi. Allora, preparate, se potete, un foglietto e una penna o una matita, così se doveste sbagliare potrete cancellare, e poi 7 carte da gioco. Non mi interessa di quale tipo, se sono carte francesi, napoletane o quant'altro. Altro, 7 carte da gioco a caso che vi serviranno per provare un esperimento. Tra pochissimo preparatevi, e visto che oggi parliamo di domande e risposte, a me è venuto in mente Arbore. Eccoci qua, anche perché cominciano ad arrivare anche i vostri messaggi, e vi ricordo che i 5 messaggi che arriveranno negli orari che mi sono inventato io, che mi sono scritto su questo foglietto, si porteranno a casa i primi 5 volumetti di Q&A. Francesca Dragotto, ciao, buongiorno, cominciamo. Buongiorno. Da te. Volevo cominciare con la lingua italiana, visto che tu sei glottologa, che uscirà tra l'altro sabato 6 agosto. Allora, io ti avevo fatto una domanda alla quale tu mi hai risposto. Io vorrei chiedere la domanda, insomma, adesso spieghiamoci, se no diventa complicato. C'è una pubblicità che è presente in questi giorni e che parla di pesti. Mm-hmm. Ovvero il famoso sugo pesto, come si chiama, il pesto genovese, però pluralizzato. E la mia domanda è: ma pesti non è sbagliato? Non dovrebbe rimanere pesto, punto di domanda? E la tua risposta è: no, non è sbagliato, ma... Ma appunto, tecnicamente no, non è sbagliato, perché non si tratta di un nome invariabile. Chiamiamo invariabili quei nomi che non ammettono differenze nella formazione del plurale, che quindi rimangono invariati. Però secondo me nel caso di pesto, così come di altre forme collegate all'alimentazione, pensiamo anche al ragù, subentra l'assimilazione della parola a un nome proprio, e i nomi propri, come sappiamo, non variano al plurale. Quindi, come non abbiamo, a meno che non si tratti di un contesto antonomastico, non abbiamo un plurale per Paolo, Paoli, dico antonomastico nel senso di mettere in evidenza un qualcosa, i Paoli sono sempre in ritardo. Ecco, certo, no? Infatti non si dice. Ecco, tra l'altro, vabbè, poi ne avrò un'altra di domanda, ma vai avanti, scusami. Sì, appunto, a meno che non ci si trovi in un contesto comunicativo specifico in cui vogliamo mettere in evidenza una caratteristica tipica di tutti quelli che si chiamano Paolo, o di un Paolo in particolare, di una famiglia collegata a un Paolo in particolare, tutti i nomi propri non ammettono modificazioni nella formazione del plurale. Quindi questo potrebbe, a te come a tantissimi altri parlanti, far pensare che dietro al plurale pesti ci sia un errore. Ecco, quindi in realtà non c'è assolutamente, quindi è corretto dire i pesti. Sì. Però tu dicevi, è una questione proprio di ascolto, cioè di come è educato il nostro orecchio. E secondo te quindi c'è anche una differenziazione da parte degli italiani in questo senso? Sentire, quindi non tanto, o almeno non in prima battuta, di ascolto nel senso di orecchio, ma di ascolto nel senso di percezione, quindi di sentimento linguistico. Il parlante non è mai una spugna, o meglio, il parlante che abbia almeno un livello di competenza medio sulla sua lingua non è mai una spugna che riceve passivamente strutture linguistiche e parole dall'esterno, è portato a reinterpretare. D'altra parte, e mi ricollego all'argomento della canzone d'apertura, tutto quanto il quiz nasce proprio dalla reinterpretazione, in questo caso voluta, o dell'espressione di una parola o del suo contenuto, del concetto a cui la parola rimanda. Certo, allora Francesca, noi ti richiamiamo perché ti sentiamo molto male, quindi cercheremo di richiamarti, tra pochissimo darò la viabilità e avrò anche una domanda per voi, se vorrete rispondere al 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Ecco, io ho una domanda per gli ascoltatori intanto, Francesca, che è questa. A questo punto, quando parliamo dei giorni della settimana, soprattutto il sabato, si dice i sabati o i sabato? Punto di domanda, ma non dammi la risposta adesso, Francesca. Vediamo gli sms che arrivano al 349-238-6666. Allora Francesca, altre curiosità della nostra lingua, ne abbiamo una valanga immagino, tu cosa hai pescato? Comincerei proprio con la parola quiz. Quiz chiaramente è la forma integrata in italiano di un... Perché dico chiaramente? Perché l'ho letto quiz. Alla base c'è un termine inglese, inquisition, quindi appunto ricerca, nel senso proprio di inquisizione che abbiamo anche noi, ma non finalizzata a punizione di alcun tipo. La parola è stata tagliuzzata e quindi dal quiz, pronunciato però quiz, l'italiano ha ricavato un elemento che poi è introdotto nella propria lingua. Ecco, quindi arriva dall'inglese, sono un inglesismo, sì. Quindi quiz. Sì, esattamente. Ne abbiamo tantissimi, già in altre occasioni abbiamo visto che l'italiano è piuttosto ricettivo nei confronti delle altre lingue. Molto. A seconda del periodo, forse anche troppo, soprattutto in alcuni contesti abbiamo visto poi che paradossalmente si può arrivare ai casi delle palle del topo della settimana scorsa, quando appunto si rinuncia in partenza a trovare dei termini di arrivo per dei prestiti che si vanno ad assumere. Tra l'altro, tu citavi appunto nelle traduzioni la settimana scorsa, avevamo detto la pallina del mouse, in poche parole, in questa traduzione di un libro di istruzioni è stato tradotto come la palla del topo, appunto, perché mouse è stato tradotto. Mi ricordo che la stessa ditta aveva anche tradotto con dischi mosci, i famosi floppy disk erano i dischi mosci, per cui ecco, devo dire ho trovato anche flosci come traduzione. Anche flosci, sì. Beh certo, in fondo floppy è quello, va bene, insomma noi siamo così. Intanto stanno arrivando un po' di risposte fra sabato e sabati, e ovviamente c'è chi dice il sabato e c'è chi dice i sabati, e la risposta giusta qual è? di nuovo ritorniamo alla differenza che c'è tra la norma e l'uso, perché si può, è correttamente pluralizzabile la parola sabato, per cui si può dire i sabati, tutti i sabati mi reco al mercato a fare la spesa, però di nuovo il parlante può esercitare la propria competenza metalinguistica e trovare una ragione per cui una forma possa essere preferibile o meno ad un'altra. Questo non significa che tutto vada bene, però come al solito dobbiamo ritornare alla questione dei contesti, c'è una divaricazione enorme tra la norma e gli usi, quindi in qualche modo soprattutto nella comunicazione orale è il parlante a farla da padrone. Ecco, tra l'altro mi veniva in mente che in fondo domenica noi diciamo tranquillamente domeniche e gli altri giorni non li, siccome finiscono in i, il lunedì, i martedì rimangono invariati e quindi è sabato è l'unico che, quindi correttamente forse dovremmo metterlo al plurale in effetti. Sì, anche se quel di lunedì, martedì è un troncamento da dies del latino giorno di cui non ci rendiamo più conto e che appunto percepiamo come già contenente una nozione di plurale in sé, quindi il problema non ce lo poniamo per quei giorni, ma appunto ce lo poniamo per quelli che deviano rispetto a questa forma. Ecco, Francesca, vuoi lasciarci con un quiz, appunto? Con due. Allora, il primo è un quiz vero e proprio a cui posso, molto semplice, a cui possono rispondere gli ascoltatori, ed è: cosa hanno in comune un libro e un nobile? Punto di domanda, come tutti i quiz che si rispettino. Quindi dopo ti risentiremo e dovrai darci la risposta, ovviamente. Cosa hanno in comune? La daranno senz'altro gli ascoltatori. Sì. E speriamo, la seconda sto pensando. È una curiosità. Sì, se ho 30 secondi, è una curiosità. Come no? Simpatica, almeno io la trovo simpatica, e che ha a che fare con l'alimentazione, in particolar modo ha a che fare con la parola hamburger o hamburger come la pronunciamo ormai in italiano. In questo caso si tratta di una parola che non arriva direttamente dall'inglese, o meglio l'italiano la prende dall'inglese che però a sua volta l'ha presa dal tedesco, in particolare dalla città di Amburgo. Si tratta di un termine che penetra nell'inglese d'America nella prima metà dell'Ottocento con il significato di carne, polpetta, anche bistecca, che ha a che fare con la città di Amburgo, perché il presupposto è che ad Amburgo la carne si cuocia in quel particolare modo. Allora, l'italiano lo recepisce nella prima metà del Novecento, la prima attestazione scritta la troviamo nel 1963, come spesso accade, e fa l'ellissi, quindi elimina una parte del nome e quindi noi ci ritroviamo soltanto hamburger. Ad hamburger il parlante dà il significato però complessivo che l'espressione aveva in inglese, quindi gli dà l'idea di una polpetta. Però il parlante dotato di un minimo di competenza linguistica sull'inglese, ritorniamo al fatto che il parlante la fa da padrone, può vedere in hamburger un composto, il composto di ham, prosciutto, più burger. E a questo punto cosa può fare? Può sostituire il prosciutto con qualsiasi altro tipo di ingrediente e arrivare così a onion burger, l'hamburger fatto con le cipolle. Certo, ma quindi tu vuoi dire che dal nome poi si è inventato il panino? È stato il contrario? Beh sì, esattamente, è dal nome che si è inventato il panino, è un'idea strategica che ha a che fare con la manipolazione linguistica, lo stesso tipo di manipolazione che sta alla base del quiz e che in questo caso ha portato a una vera e propria declinazione di panini. Ma la curiosità nella curiosità sta nell'etimologia di hamburger, perché tutte le parole germaniche che sono costruite con l'elemento burg hanno a che fare etimologicamente con il borgo, quello che in italiano è il borgo, quindi poi per estensione la città di. Allora, se un parlante di qualche secolo fa si ritrovasse proiettato oggi e si ritrovasse di fronte ad un cartello con la scritta cheeseburger, penserebbe di essere capitato nella città del formaggio. Ecco, beh, vedi, insomma, come la nostra gorgonzola in fondo. Intanto è arrivata anche la risposta, e bravi, anzi brave devo dire, perché sono tutte ascoltatrici che hanno risposto correttamente, credo correttamente, alla tua domanda: cosa hanno in comune il nobile e il libro? Il titolo. Credo che sia giusta la risposta, certo. Infatti brave davvero. Ricordatevi che io ho 5 diciamo collane, parte delle collane da regalare agli ascoltatori. Grazie Francesca, grazie davvero, buona giornata. Buona domenica. Ciao. Io non ce l'ho arrivato, ma stavo del resto devo pensare, ascoltare, quindi, però non so se ci sarei arrivato. Bene, cosa hanno in comune il nobile, il libro, il titolo? Stefano Salis. Buongiorno. Collaboratore del Domenicale, del Sole 24 Ore, parliamo proprio di libri. Hai visto che la domanda della Dragotto era inerente al nostro argomento. Tu avresti risposto correttamente? Ma su, sul titolo ce l'ho arrivata anch'io. Bravo, ecco, io non avevo modo di pensarci. Senti, tra i volumi c'è anche quello dedicato alla letteratura. Io ho pescato una domanda che è questa: chi ferì a colpi di pistola Rimbaud nel 1873? La risposta può essere tra Verlaine, Apollinaire e Baudelaire. E la risposta corretta è... lo sappiamo, Verlaine, ma anche perché c'è stato il film, forse per questo che molti lo sanno, Stefano. Sì, beh, poi molti lo sanno per questo, ovviamente, perché il film divulga. Nella letteratura questo rapporto fra Verlaine e Rimbaud è piuttosto noto, anche perché i due hanno avuto una storia tumultuosa, molto... molto variegata, prima da allievo maestro, perché Rimbaud manda le poesie a Verlaine perché lo ammirava come poeta, Verlaine lo accetta come allievo, poi divorzia Verlaine dalla moglie e va a vivere una storia omosessuale tempestosa con il giovane Rimbaud, che aveva solo 17-18 anni all'epoca. Tra l'altro i due finiscono sempre in rapporti tumultuosi, perché quella volta lì Verlaine gli spara da ubriaco e lo ferisce, e un anno dopo mi pare che invece fu Rimbaud a cercare di accoltellare Verlaine, per cui i due avevano una relazione piuttosto tumultuosa. Direi un amore focoso, ecco, nel vero senso della parola. Esatto, esatto. Senti, invece adesso vorrei parlare di qualcosa di più sereno da questo punto di vista, anche se l'amore forse è alla base di qualcuno dei romanzi che citerai, perché d'estate si legge di più, è indubbio, abbiamo più tempo per farlo e anche più voglia forse per farlo, per cui da te avrei così il piacere di sentire qualche titolo che potremmo portarci sotto l'ombrellone, in montagna, sul lago, dovunque voi siate, anche in città va benissimo. Sì, senti, intanto è vero che in estate si legge nettamente di più, perché se non altro si ha un po' di tempo libero e quindi ci si porta volentieri una lettura sotto l'ombrellone o in montagna dove si va a fare la vacanza. E infatti diciamo che le classifiche dei libri più venduti hanno sempre in questo momento una fiammata, perché ci sono sempre i grossi titoli di autori noti, alla Camilleri, alla Fred Vargas, i grandi gialli, che vanno per la maggiore. Però io mi permetto invece di consigliare tre titoli, se vogliamo, che non fanno parte delle classifiche, però siccome l'estate è anche il periodo dei premi letterari, direi due libri che hanno partecipato ai premi letterari italiani principali. E cioè indicherei Viola di Grado, con questo libro che si intitola 70 acrilico 30 lana, che è un libro di una giovanissima autrice che ha 25 anni, forse non li ha ancora compiuti, figlia d'arte perché figlia di un professore universitario e di una scrittrice, che ha pubblicato questo libro che con le edizioni EO, che ha vinto l'opera prima al premio Campiello e che è un libro di un fortissimo rapporto madre-figlia, ambientato in Inghilterra, a Leeds, dove lei ha vissuto, e che ha pochissimo a che fare con la tradizione dei giovani narratori italiani. È un libro scritto in maniera molto efficace, molto bene, e che mi sento di consigliare perché colpisce e soprattutto è adatto, a mio parere, ai lettori più giovani, che sono quelli che hanno bisogno un po' più di essere stimolati. Ecco, anche se pare che tra i giovani leggere così sia un po' ritornato di moda, soprattutto tra i giovanissimi, per cui speriamo che sia davvero così. Sì, direi che leggere, ma guarda, poi qui ci vanno fatti dei distinguo, però non voglio entrare in questa polemica. Comunque i giovani leggono tendenzialmente abbastanza, tranne che poi, passata l'età scolare, abbandonano la lettura nella maggior parte. Questo però questo è un problema, in effetti. Bisogna capire perché non riescono ad appassionarsi alla lettura. Stefano, io ti chiedo di restare con me perché abbiamo qualche comunicazione pubblicitaria e poi torniamo con gli altri due titoli da portarsi in vacanza o dovunque voi siate. Il riposo del guerriero. Con Stefano Salis stiamo discutendo dei libri da potersi portare in vacanze, non soltanto, comunque da leggere in questo momento. Stefano, il primo l'abbiamo citato, gli altri due libri. Allora, il secondo è ancora un autore italiano ed è un autore che ha partecipato in finale al premio Strega ma non ha vinto. Si chiama Bruno Arpaia e il libro si intitola L'energia del vuoto, l'ha pubblicato Guanda. È un libro che consiglio perché è scritto... prima di tutto benissimo. Bruno Arpaia è di formazione ispanista, uno scrittore che ha già scritto diversi libri, ma con questo libro in particolare si è occupato di un argomento che difficilmente arriva nei romanzi, che è l'analisi della fisica delle particelle, della fisica quantistica. Intendiamoci, non è un saggio, è un bellissimo romanzo dove c'è una ricerca una ricerca personale di un fisico che vive e lavora al CERN di Ginevra, dove avvengono questi esperimenti, ma è una ricerca anche del significato ultimo della fisica quantistica. È scritto in maniera molto capace, in modo che tutti quanti noi, anche io che sono digiuno di fisica, posso capirne qualcosa, e mi sento di consigliarlo perché unisce insomma scienza e la letteratura, che è cosa che si vede raramente negli scrittori italiani. Ecco, questo è un po' un filone in questo momento che funziona dal punto di vista così anche della curiosità dei lettori, quello di unire un saggio alla letteratura. In fondo la solitudine dei numeri primi, che un saggio non è, tenendo come punto centrale proprio questa forza, diciamo così, numeri primi, io credo che un po' quello abbia funzionato a stimolare la curiosità dei lettori. O mi sbaglio, secondo te, Stefano? Sì, no, nel caso di Paolo Giordano, la solitudine dei numeri primi deriva, credo, anche dal fatto che il titolo sia molto bello. E effettivamente ha funzionato, però il libro, come tu sai, non parla di matematica. No, assolutamente no. Cioè, ecco, benché Giordano sia di formazione un fisico. Esatto, perché parte da un presupposto in realtà matematico, un pensiero filosofico legato alla matematica, ecco, diciamo così. Esatto, però e poi rimane un bellissimo romanzo e credo che Paolo Giordano ne scriverà di altri. Vedremo come saranno, perché non so, come sempre, se uno sia molto successo poi è difficile anche replicare. Lo so, però io ho molta fiducia in Giordano. Tutti l'abbiamo, vogliamo anche averla. E come terzo titolo, questo mi sento veramente di raccomandarvelo caldamente, prendete la matita e segnatevi questo titolo. Il titolo è facile, l'autore è un po' più difficile. Il titolo è La casa di carta. La casa di carta, l'ho pubblicato Sellerio. L'autore è un autore argentino, si chiama Carlos María Domínguez. È un libro brevissimo, saranno neanche 100 pagine. È una storia molto divertente, molto bella, che ha a che fare con i libri, perché è l'indagine che fa un signore che riceve un libro dall'Argentina, lui sta in Inghilterra, va a vedere da dove gli è arrivato questo libro e viene a scoprire che apparteneva a un grandissimo bibliofilo che si è ritirato a vita privata in una spiaggia dell'Uruguay, dove scoprirà che uso ha fatto dei libri questo grandissimo bibliofilo. È un libro che sono sicuro farà innamorare i lettori e soprattutto quelli a cui piace la narrativa che parla di libri. Quindi La casa di carta di Carlos María Domínguez. Ecco, immagino che l'uso non sarà soltanto la lettura del libro, ma il libro come oggetto viene usato per qualcos'altro. Infatti il titolo ce lo suggerisce. Già capito, immagino almeno poi. Diverso, è interessante. Sì. Senti, vogliamo ricitare i tre libri, perché tra l'altro gli ascoltatori giustamente stanno scrivendo chiedendo ce li puoi ricitare, così se li scrivono uno alla volta. Sì. Allora, ho citato Viola di Grado, 70 acrilico, 30 lana, edizione E.O., Bruno Arpaia, L'energia del vuoto, pubblicato da Guanda, e Carlos María Domínguez, La casa di carta, pubblicato da Sellerio. Questi sono i miei tre consigli per l'estate. E li seguiremo, grazie Stefano Salis, buona domenica. Grazie a te, buona domenica. Ciao, grazie. Andiamo avanti, perché questa collana è dedicata a moltissimi argomenti. Il primo libro di questa collana Q&A, ripeto, che è uscita ieri, sono dei libricini con dei quiz allegati al Sole 24 Ore, con soltanto 10 centesimi in più le prime 5 uscite, ogni sabato e ogni martedì. Ieri è uscito il primo numero dedicato al cinema. Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Buongiorno, ma sai che non erano mica facili quelle domande lì, Io mi sono messa a farle, ma non le sapevo tutte, sono una bella sfida. Allora, senti, io comincerei con una domanda che in realtà pongo agli ascoltatori, quindi se volete rispondere 349-238-6666, anche perché 5 di voi si porteranno a casa parte di questa collana, non importa che rispondiate correttamente o meno, basta che il messaggio arrivi in uno dei 5 orari che io mi sono segnato all'inizio della trasmissione. La domanda è questa: chi avrebbe dovuto interpretare i predatori dell'Arca Perduta se la produzione della serie TV cui stava lavorando non gliel'avesse impedito. Quindi non avrebbe dovuto essere Harrison Ford, ma un altro attore, io vorrei sapere quale. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS. Marta, io credo che i no nel mondo del cinema siano stati tanti, e anche magari poi alla fine mordendosi le labbra per aver detto no magari a qualche produzione. Sono stati tantissimi, sono passati alla storia, ci sono anche delle leggende metropolitane, perché addirittura si dice che quell'attore lì, di cui ancora non facciamo il nome, avesse detto io quel film per ragazzini non lo faccio, non si sa se è vero, certo è che se l'ha detto si è mangiato le mani, altro che fino al gomito, fino alle spalle. Ad esempio, se vi dico John Lithgow, è un attore famosissimo, però il nome non dice poco. In tanti, tutti poi lo vedono e dicono, ah, è lui. Pensate che lui doveva fare Il silenzio degli innocenti, invece di Anthony Hopkins. Chevy Chase, campione della comicità anni 80, doveva fare Forrest Gump. Molly Ringwald, amata dalle ragazzine negli anni 80, doveva fare Pretty Woman. Insomma, sono tantissimi i no. Addirittura si dice, lui l'ha detto, che Terence Hill doveva fare Rambo. Io non lo so. Ecco, l'ha proprio dichiarato, ecco, lui. Io non so come sarebbe cambiata la carriera, esatto, di Don Matteo. Non eh? Soltanto, bisogna anche capire però se il film avrebbe avuto poi lo stesso impatto. Cioè la domanda è, un Rambo con Terence Hill avrebbe avuto la stessa forza di un Rambo con Sylvester Stallone? Voglio dire, noi siamo abituati a legare il personaggio ormai a Stallone, per cui è difficile, bisognerebbe veramente tornare indietro con la macchina del tempo. Però l'attore fa in un film, magari non lo rende poi così forte, no? Mi sbaglio. Ci sono attori invece che non si sono mangiati le mani e hanno detto: meno male, fatto, ma avevo ragione io. Certo. Ad esempio, Will Smith doveva fare Matrix al posto di Keanu Reeves. Lui ha detto: meno male che non l'ho fatto io avrei rovinato il film. Lui l'ha detto chiaramente: Keanu Reeves era perfetto, io non l'avrei fatto così bene, e soprattutto lui ha confessato che Reeves aveva capito esattamente lo spirito del film e lui no, non aveva colto il personaggio leggendo il copione. Può succedere. Assolutamente sì. Tra le altre cose, sono arrivate molte risposte corrette alla domanda che abbiamo fatto all'inizio. L'attore avrebbe dovuto essere Tom Selleck, quindi Tom Selleck avrebbe dovuto impersonare il personaggio che ha poi interpretato Harrison Ford, e quindi Indiana Jones, direi. Tom Selleck penso che si sia mangiato sì le labbra, magari anche il sì, cappello. Appunto, non si sa se è stato lui a dire di no, come appunto no, pare che la serie televisiva, però in realtà pare proprio che non gli avessero dato no, il permesso di lasciare il set di Magnum P.I. Esatto, succede. Anche perché era un grandissimo successo Magnum P.I. in quel momento, e lui era Magnum P.I. nel senso che la forza era proprio nel personaggio e nell'attore, quindi mai avrebbe dovuto allontanarsi dal set. Ecco, sono le sliding doors, per citare il titolo di un film, chissà cosa sarebbe successo. Andiamo avanti con un'altra domanda. C'è un regista italiano, e qui possiamo già rispondere, Marta, che ha dedicato un suo film all'isola di Stromboli, e le proposte sono Visconti, Bolognini e Rossellini. La risposta corretta è? Allora, ragazzi, stiamo parlando di una delle più grandi storie d'amore del cinema mondiale. Due isole, Vulcano e Stromboli. Gli amanti del vulcano, stiamo parlando di un certo signor Roberto Rossellini, che aveva una storia d'amore straordinaria con Anna Magnani, ma sull'isola si portò Ingrid Bergman, lì nacque l'amore. Cosa succedeva in quegli anni? Succedeva nello stesso momento che la signora Magnani non voleva arrendersi, e allora cosa fece? Si portò all'isola di Salina il regista William Dieterle per il film Vulcano. Intanto Stromboli, terra di Dio, di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman. Questa guerra andrà avanti anche nelle due prime del film, straordinarie. Una andò deserta, addirittura pare che la pellicola andò a fuoco, quella con Anna Magnani, e alla fine anche l'amore trionferà tra Rossellini e la Bergman, figli, insomma, Anna Magnani perdeva in quel modo sia la sfida cinematografica che la sfida sentimentale. Tra l'altro, dovremmo vedere presto un film su questa vicenda, però pare che non ci siano abbastanza finanziamenti, ha detto il produttore Luca Barbareschi. Lui pensava addirittura a Uma Thurman per come, la, come protagonista, certo. Tra le altre cose pensavo, prima abbiamo visto come la letteratura porti il fuoco, l'amore porti il fuoco, anche in questo caso poi di vulcani si trattava, quindi il fuoco ce n'era parecchio. Marta, che cosa dobbiamo andare a vedere al cinema, magari all'aperto, visto che d'estate si usa, perché spesso d'estate ritornano a essere proposti dei film che sono passati un po' inosservati ma molto belli durante l'anno, oppure addirittura qualcuno esce, cioè trova distribuzione solo nel mese di agosto, ed è un si tratta di anche di bei film, non soltanto ciofeche, per cui citiamone qualcuno, Marta. Allora, io vi voglio subito dire che io purtroppo sono una grande fan di questo film, quindi purtroppo avrò toni assolutamente trionfalistici per questo straordinario film Visiting England di Shane Meadows. Vi dico solo che ha vinto il premio speciale della giuria al Festival di Roma nel 2006, quindi da 5 anni lo aspettavamo in sala. Uscirà il 26 di agosto. Un film imperdibile per tutti coloro che amano l'Inghilterra, per tutti coloro che amano gli anni Ottanta, perché è ambientato nel 1983. È un film splendido, come spesso accade. I film che vanno nei festival, che vincono i festival, purtroppo non escono, o escono dopo molto tempo. Per questo avevamo perso le speranze e invece è arrivato. Ecco, spesso poi escono magari soltanto in DVD o in Blu-ray, e quindi bisogna conoscerli per andarli poi a comprare o a noleggiare, e sì, il fatto è che se non si conoscono poi non lo si fa, ecco. Sì, devo dire che l'estate purtroppo da anni da noi si vuole far tornare il pubblico al cinema, come succede negli Stati Uniti, nei quali l'estate è stagione calda non solo cinematograficamente. Io penso che quest'estate sarà, in quanto a incassi, dominata totalmente da Harry Potter, l'ultimo capitolo. Pensate che mercoledì 27 luglio c'è un'uscita, venerdì 29 luglio 2 uscite, è pochissimo, sono veramente pochissime le uscite. Cosa bisogna fare secondo me? Andare alla ricerca dei piccoli film che non hanno trovato distribuzione durante l'anno. Sono usciti anche molti piccoli film italiani, quasi tutti molto interessanti, proprio perché la distribuzione estiva è una distribuzione un po' pioniera. Bisogna andare a cercare non tanto i film americani, che spesso sono film un po' di scarto, quelli dai titoli un po' bizzarri, l'horror estivo, che insomma un po' di seconda categoria. I piccoli film italiani che sono usciti in questo periodo invece sono quasi tutti molto molto interessanti, e quelli sono da tenere d'occhio. C'è da dire che poi succedono le cose assurde, come i film di Walt Disney che noi aspettiamo per mesi perché escono negli Stati Uniti d'estate, e noi dobbiamo aspettare ottobre, come accadrà ad esempio per i film di Woody Allen, non quello che sta girando sì, a Roma sì. Ma quello che è stato presentato a Cannes. Ecco, tradizionalmente noi aspettiamo moltissimo, quindi d'estate non si sprecano le uscite per i film importanti. Ai noi non abbiamo imparato che al cinema si sta benissimo perché c'è una freschissima aria condizionata. Certo, e comunque è un bellissimo modo anche di trascorrere una serata. Ti ringrazio molto, Marta Cagnola, buona domenica, grazie. Grazie, e buon presto. Cinema, sicuramente. Grazie. Tra pochissimo il traffico, voglio ricordarvi di tenere pronte matita e carta, e poi 7 carte da gioco, vi serviranno perché tra poco giocheremo con voi. E intanto vi dico già che tra gli sms arrivati qualcuno si porterà anche a casa già parte della collana Q&A. Il riposo del guerriero. Tra i vostri sms è arrivato anche quello di Barbara di Bassano del Grappa, e che saluto, e mi dà modo di dire una cosa. E dice: salve, visto che prima si parlava con la glottologa di errori nella pubblicità, attenzione, qui mi viene proprio da sorridere, mi piacerebbe non sentire più quella che dice gli pneumatici. Peccato, Barbara, che gli pneumatici è assolutamente corretto, è proprio sbagliato dire i pneumatici. Pensiamo alla parola pseudonimi, quindi PS e non PN, ma segue la stessa regola, e la Dragotto me lo potrà confermare, Francesca, è come dire gli pseudonimi, che è corretto. Bruttissimo e sbagliato dire i pseudonimi, quindi dire i pneumatici è sbagliato, quindi la pubblicità che dice gli pneumatici è corretta, e meno male che usa la forma corretta una volta tanto, perché spesso si usa invece quella scorretta. Silvia Toniato, ciao, buona giornata. buongiorno. Allora, Silvia Toniato, insieme a Dario Bressanini, ha pubblicato un libro intitolato I giochi matematici di Fra Luca Pacioli. Chi era Fra Luca Pacioli, Silvia? Ma è un grandissimo, un illustre sconosciuto, insomma. Diciamo che è il più grande matematico del Rinascimento italiano, anche se appunto se ne parla molto poco. Pensiamo che era amico di Piero della Francesca, è stato molto amico di Leonardo da Vinci. Lui è vissuto alla fine del 1400, molto all'inizio del 1500, e appunto ha scritto dei trattati di matematica che sono stati alla base ancora degli studi matematici di fino a 100-150 anni dopo. Ecco Silvia, ma veniva usata come gioco la matematica o solo come conoscenza, oppure proprio il gioco della matematica in società era utilizzato? Era utilizzato il gioco della matematica in società, nel senso che la matematica era usata per giocare da un lato nell'insegnamento, nel senso che appunto imparare giocando è un modo per imparare meglio, quindi diciamo che in quasi tutti i trattati di matematica si trovano dei giochi o dei problemi dilettevoli. Dall'altro lato è usata per appunto tra i non matematici per stupire, quindi quando si gioca in società con amici, avere diciamo nel taschino qualche trucco aiuta intanto ad animare la serata, a divertire, poi appunto a stupire e a farsi apprezzare. Ecco, a socializzare in qualche modo, magari ne insegneremo anche qualcuno oggi. Senti Silvia, ultima domanda per te, c'è qualcosa di particolare che ti ha incuriosito molto di Fra Luca Pacioli? A parte tutto, era un frate proprio, scusami. Sì, era un francescano, a un certo punto è diventato francescano, pensiamo per studiare, perché lui è nato appunto in una famiglia non agiata e quindi ecco, l'essere francescano deve averlo aiutato per poter proseguire lo studio. Ecco, dicevo, c'è una cosa che ti ha colpito in modo particolare? Mi colpisce in modo particolare, sì, l'attitudine didattica che lui ha, insomma, il modo di pensare che ciascun allievo, per esempio, ha una testa diversa da quella degli altri, che quindi un buon maestro deve pensare di porre i propri argomenti, gli oggetti del proprio insegnamento perché l'allievo li capisca, e quindi di usare eventualmente un linguaggio diverso a seconda della persona che ha di fronte. Pensiamo che nella somma di aritmetica Pacioli insegna qualcosa come 9 modi per fare le moltiplicazioni, e dice non ce n'è uno più intelligente, uno più stupido, bisogna che ciascuno possa utilizzare quello col quale si sente più a proprio agio. Ecco, è vero, infatti il percorso matematico, il percorso logico, chiamiamolo così, è veramente diverso per ogni persona. Mi accorgo, per esempio, quando tento di spiegare una cosa, un percorso logico a qualcuno che non ha il mio stesso modo di usare la logica, non mi capisce e mi sembra impossibile. Invece è giusto, perché ognuno ha il suo percorso, per cui ognuno ci arriva a suo modo, basta esatto. Arrivarci, cioè quella la chiave esatto. Di tutto. Se pensiamo per esempio che si possono fare le moltiplicazioni con numeri, anche con molte cifre senza riporti, sarebbe per esempio una cosa importantissima se i maestri elementari conoscessero queste tecniche e le insegnassero, così magari le moltiplicazioni con i numeri grandi non sarebbero più degli incubi per i bimbi che imparano l'aritmetica, così come si possono fare le sottrazioni senza riporti. Perché non si insegna? Quindi, insomma, secondo me andare a esplorare questi trattati o questi personaggi che sembrano obsoleti semplicemente perché sono vissuti insomma qualche secolo prima di noi, ecco, andare a vedere come facevano probabilmente ci aiuterebbe nella didattica anche oggi. Insomma, il fatto di essere vissuti prima non è un segno di ignoranza. Ah no, assolutamente no. E quindi ecco, acquisire gli strumenti come per esempio quello della filologia, la capacità di andare a studiare i manoscritti, per andare a vedere anche ciò che si diceva, ciò che si scriveva prima dell'introduzione della stampa, secondo me è una cosa molto importante. Assolutamente sì, anche imparare a usare l'abaco e il pallottoliere per esempio insegnano a pensare anche in modo diverso, quindi usare la logica in un certo modo. Sì, l'ultima sì, domanda per te Francesca, sì, dimmi sì. Che non dobbiamo pensare a questa matematica semplicemente come quella del pallottoliere, non che non siano utili, ma insomma andando a vedere che cosa si conosceva, si scopre che erano già molto avanzati rispetto a quello che noi ci aspetteremmo. Scusami, ti ho interrotto. Ecco Silvia, invece ho sbagliato il tuo nome, semplicemente per dire che invece Francesca, un'ascoltatrice, ha scritto una domanda che volevo farti. Chiedeva se Luca Pacioli fosse anche un medagliista o si tratta semplicemente di un omonimo, che tu sappia. Così, è una curiosità. Che cos'è un medagliista? Non lo so neanch'io, vi lascio a questa domanda che rimane un quiz senza risposta. Se volete dare il mio contatto, magari perché mi scrivo, perché mi telefoni, le rispondo volentieri. Volentieri, grazie davvero Silvia Toniato, ciao, buona domenica. Grazie a voi, ciao. Dario Bressanini, eccoci qua. Ciao. sì, ciao. Come si fanno a fare le moltiplicazioni? Se, no, no, lasciamo perdere, perché già penso che sia complicato. No, da spiegare non sarà velocissimo, per cui... No, da spiegare, io l'ho ho imparato questo modo di fare le moltiplicazioni appunto con Silvia, leggendo questi manoscritti, ed è veramente un modo bellissimo di farle. Lungo, no, è difficile da spiegare. No, infatti immaginavo, è per quello, mi dispiace. Anche se devo dire che il tormento di tutti sono le divisioni. Quello è un tormento di tutti. Io non so se ci sia un modo più semplice di fare le divisioni, però... No, ce n'erano di più complicati, il nostro ecco, è quello più semplice. Quindi teniamocelo stretto e caro, no? Che ogni tanto ancora quando provo a fare, ormai usiamo tutti la calcolatrice, per cui ci dimentichiamo davvero di fare i famosi riporti, no? Con il simbolino. E devo dire che dopo un po' di anni, se ti rimetti a farle, è difficile ricordarsi, è difficile, tutto il meccanismo. Io adesso che devo aiutare mio figlio alla scuola elementare a farle, è difficile. La cosa bella è che all'epoca, cioè nel 400, nel 500, le facevano a mente, facevano divisioni a mente con numeri di 3, 4, 5 cifre, è incredibile. Dovremmo allenarci anche noi. Allora Dario, vogliamo proporre un gioco ai nostri ascoltatori? Sì, questo è uno dei giochi che del libro, del manoscritto che abbiamo tradotto e commentato di Luca Pacioli. Questo è molto bello. Allora, racconta Pacioli che c'è una donna che va al mercato con una cesta di uova da vendere. Cominciamo bene. Sì, così come adesso le ambientazioni sono un po' artificiali, ma servono per introdurre il gioco. Allora, ci sono dei ragazzi che stanno giocando a pallone lì di fianco, giocavano già a pallone nel 500, e una pallonata arriva e spacca tutte le uova di questa donna, che va a lamentarsi dal podestà perché vuole che le siano ripagate. Chiaramente il podestà le dà ragione e le dice: va bene, allora quante erano le uova? E le dice: guarda, non lo so, non me lo ricordo, però io sapevo che se le contavo a due ne avanzava una, cioè diremmo noi adesso, se dividiamo il numero per due c'è un resto di uno. Sì. Se le contavo a tre ne avanzavano due, se le contavo 4 a 4 ne avanzavano tre, se le contavo 5 a 5 ne avanzavano 4, 6 a 6 ne avanzavano 5 e, attenzione, adesso è diverso, se invece le contavo 7 a 7 non ne avanzava neanche una. E Pacioli ci chiede qual è il numero minimo di uova che aveva la donna nel paniere. Allora, ripetiamo una cosa, divise per 2 ne avanza una, divisa per 3 ne avanzano 2, divise per 4 ne avanzano 3, diviso per 5 ne avanzano 4, e divise per 6 ne avanzano 5, divise per 7 non ne avanza nessuna, quindi è sicuramente un multiplo di 7. Lì bisogna partire da quello. Quindi questa è la prima, quindi lasciamo agli ascoltatori poi la voglia di risolvere questo mistero. 349-238-6666 per i messaggi. E senti, allora il procedimento logico, per esempio Dario, partiamo quindi dall'ultimo elemento, quello che dice che deve essere per forza un multiplo di 7. Certo. E poi tu che cosa consigli come approccio? Allora, come dicevi prima tu, la logica delle persone è estremamente diversa. C'è chi approccia questi problemi trascrivendo subito il problema in linguaggio matematico. Questo è quello che farei io, ad esempio. Io comincerei a scrivere appunto n o x, con l'incognita. Sì, ma tu sei un chimico fisico, matematico, per te è facile. Insomma, per gli ascoltatori magari un po' meno, se non hanno dimestichezza. Esatto, altre persone invece cercano di ragionare con le parole, mascherando un po' i numeri. E allora... devono cominciare a dire: ok, di sicuro deve essere un numero multiplo di 7. Andiamo a vedere, non è un multiplo di 2, perché chiaramente dividendo per 2 avanza 1, non è un multiplo di 2. Allora andiamo a vedere quali tra i multipli di 7, ad esempio, dà un resto di 1, e così cominciamo a scartarne alcuni. Ecco, ti fermo qui, Dario, ti fermo qui e vediamo se stanno già arrivando un po' di sms con le risposte. Io ti chiedo solo questo e poi ti saluto. Tra 21, 14, 77 e 49 c'è la risposta giusta o no? No, perfetto. Grazie, ciao Dario. Ciao, ciao, grazie. Ciao. I giochi matematici di Fra Luca Pacioli, trucchi, enigmi e passatempi di fine 400. Il riposo del guerriero. Le 11:06 e ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Sorrido perché sto pensando a questa puntata interattiva che è veramente ricchissima, dei vostri sms con le risposte più disparate alle tante domande che oggi sto ponendo, ma Mi veniva anche da sorridere perché pensavo al quiz che aveva proposto Bressanini prima, ovvero questa donna che rompe le uova. Lei non si ricorda il numero di uova, però si ricorda una cosa impossibile. Che è? Allora, le mie uova erano così, erano tante quante, se divise per 2 avanzava una, se divise per 3 2, per 4 3, per 5 4, per 6 ne sarebbero avanzate 5 e divise per 7 non ne sarebbe avanzata nessuna. La risposta corretta è arrivata da più ascoltatori ed è 119, però devo complimentarmi con credo Maria, sì, che è stata la primissima a rispondere correttamente. Brava Maria e bravi anche tutti gli altri, non mi sono neanche messo perché me l'ho fermato a 35, ma era sbagliato. 11:07, ancora una nostra glottologa, glottologa linguista dell'Università di Roma Tor Vergata, facoltà di lettere e filosofia, Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Buongiorno di nuovo. Allora, semplicemente in modo veloce per rispondere a delle domande che sono arrivate dagli ascoltatori. Allora, la prima era quella gli pneumatici, ma credo di aver dato la risposta corretta, giusto? Hai dato la risposta corretta, giusto. Ecco, anche perché io su quella cosa sono piuttosto fissato, quindi ecco perché. Poi c'è invece una domanda che arriva da un altro ascoltatore, si chiama Massimo, e lui dice dita diti, ginocchia ginocchi, sì. Perché? Beh, entriamo in un ambito a cui dovremmo dedicare una puntata a parte. Lo faremo. La formazione di plurali irregolari in italiano, perché nascondono delle storie spesso affascinanti, perché collegate non solo con la nostra tradizione linguistica, ma anche proprio col modo di lavorare del nostro cervello. Siamo in un ambito che in termine tecnico si chiama dell'allotropia di genere, cioè in questo caso di numero, perché che significa? Significa che per uno stesso singolare ci possono essere più forme di plurale. Nel caso specifico dell'esempio proposto dall'ascoltatore, si tratta di un'alternanza che in genere si risolve attribuendo la forma in A ai plurali che si riferiscono al corpo degli esseri umani e quella in I ai significati non compresi invece nell'ambito di questo tipo di significato. L'origine dei plurali in A è un'origine che risale a migliaia di anni fa e che ci impone di parlare del rapporto tra l'animato e l'inanimato. Quindi originariamente parlo quindi di indoeuropeo, quindi della matrice comune a tantissime lingue, tutto quello che era caratterizzato al plurale da una A finale indicava cose che non si muovevano, l'inanimato. Successivamente, nel corso del tempo, questa è passata ad indicare invece la collettività ed è per questo che quando usiamo il plurale di uovo non diciamo uovi ma diciamo uova. Nel caso di dita, l'idea della asta, che ha a che fare con il plurale del termine latino corrispondente, si riferisce al fatto che le dita vengono prese nel loro complesso. D'accordo? Ok, quindi insomma risposta complicata in effetti. Sì, è per questo che dicevo dovremmo dedicare un po' certo, di tempo. Certo, però mi fa sorridere come ogni parola nasconda una storia ricchissima, quindi in effetti c'è molto da sapere. Una curiosità, perché mi rendo conto di aver condensato un argomento enorme e complesso in poco tempo, però pensiamo a panno panna, è un altro caso di allotropia, la parola è la stessa, ma uno attualmente si può chiedere che collegamento c'è tra il panno e la panna. Se ci si ragiona si capisce che originariamente la parola poteva essere unica, perché che cos'è che accomuna la panna, quindi lo strato superficiale del latte, al panno, il tessuto con cui si fanno gli abiti? La pongo come domanda e poi chiaramente do la soluzione. Cos'è che li accomuna? Vabbè, il fatto che siano insomma come se fosse il panno del latte. Cosa mi fai dire? Non lo so, Francesca, però insomma è la parte solida, diciamo così, di un liquido, no? Esattamente, c'è una caratteristica in comune che è quella vischiosità, sì. quel tipo di percezione che si ha al tatto, che fino a un certo punto ha permesso alla parola di essere utilizzata indifferentemente tanto per l'uno tanto per l'altro significato. Quando nella mente del parlante è quello di cui parlavamo prima, la sensibilità. Quando nella sensibilità metalinguistica del parlante le due cose cominciano ad essere sentite come autonoma l'una rispetto all'altra, cioè distinguiamole, ecco, esatto, certo. Ti permette di distinguerle attraverso la morfologia. Comunque da domani se volete per esempio così distinguervi, dite che il vostro latte ha fatto il panno, che va bene lo stesso. Ecco. Esatto, poi voi portate la registrazione della puntata del Riposo del Guerriero, così non vi prendono per matti, però è divertente. Ciao Ciao Francesca, grazie. Buona domenica ancora. Ma quante domande che avremo da fare, anche per curiosità, insomma, cercare di parlare in italiano correttamente, ma soprattutto capire perché una cosa o per l'altra. Per esempio, secondo una leggenda metropolitana, la Finlandia avrebbe per decenni censurato un celebre personaggio dei fumetti perché non indossava i pantaloni. Io vorrei capire qual è questo personaggio censurato secondo una leggenda metropolitana dalla Finlandia perché appunto non indossava i pantaloni. Io non so se Alessandro Piccioni lo sa. Ciao Alessandro, buona domenica. Ciao, buongiorno a tutti. Sai, allora... Non dirlo però, cioè la sai già la risposta? Allora, io la so, però effettivamente è molto curiosa, quindi inviterei gli ascoltatori a rispondere. Bravo, hai già capito. 349-238-6666. Anche perché io ho i primi numeri della collana Q&A da regalarvi, ve lo dico, ve lo ricordo, insieme al Sole 24 Ore, ogni sabato e martedì in edicola, solo con 10 centesimi in più. Allora, Alessandro, leggendemetropolitane.net, questo è il sito che tu curi, sì. Perché le leggende metropolitane sono tante. C'è qualche leggenda metropolitana, Alessandro, che sembrava essere una leggenda che poi invece non lo è stata? Allora, sì, di questi casi ce ne sono tanti. Il primo che mi viene in mente è stato il caso di una leggenda che nasce appunto come leggenda, ma poi era talmente potente che si è sentito la necessità di farla diventare reale. Questo ad esempio è il caso della raccolta dei tappi di plastica, che era una leggenda che qui in Italia iniziava a circolare un po' tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, in cui si diceva, si consigliava sempre a amici, parenti, di mettere da parte i tappi di plastica delle bottiglie, perché poi qualcuno li stava raccogliendo e poi, una volta raccolti in grandi quantità, li avrebbe trasformati in un'opera benefica, a volte una carrozzina per disabili, altre volte diciamo proprio in denaro da distribuire a bisognosi. Questo in realtà nasce proprio come leggenda. In realtà nel corso del tempo, dato che ebbe una diffusione talmente potente e effettivamente così tante persone raccoglievano tappi di plastica, alcune associazioni effettivamente hanno sentito la necessità e il bisogno di raccogliere effettivamente questi tappi da queste persone per poi diciamo rivenderli sotto forma di materiale riciclabile per fare le operazioni benefiche. Beh, questo è molto interessante, Alessandro, perché da una leggenda metropolitana far nascere comunque un'operazione di sostegno e di sostenibilità mi sembra una bellissima cosa, è una bella notizia. E invece, esatto, la leggenda metropolitana, a parte il terremoto di Roma dell'11 maggio, ma a parte, sì, quella, così, che ti viene in mente più eclatante negli ultimi tempi, quale può essere? Guarda, una che secondo me, diciamo, è una che a me appassiona da tanto, da sempre, anche perché essendo un grande appassionato di musica, la presunta morte di Paul McCartney. Ancora, siamo ancora lì, con un sacco di prove. Lì. Io ho un amico che mi ha raccontato tutte le prove e alla fine mi ha quasi convinto, guarda. Perché infatti il problema è questo qui, poi, perché se uno non si basa su questi indizi nelle canzoni, nei dischi, alla fine è un po' una voce che rimane lì... è impossibile credere, però effettivamente quando si incomincia a scavare nelle canzoni, nei dischi, poi il dubbio viene. Poi le foto, ma guarda, era diverso, poi è cambiato, è incredibile. E qual è la tua opinione, Alessandro, in merito? È una leggenda metropolitana? Guarda, la mia opinione è quella che sì, è una leggenda metropolitana, tra l'altro sfatata dallo stesso Paul McCartney. Io non so quanti ricordano un disco che uscì, credo, alla fine degli anni 90, che si chiamava Paul is Live, appunto. In copertina c'era lui ancora sul diciamo sul passaggio pedonale di Abbey Road con il suo cane. Ecco, secondo me, almeno io l'ho interpretato quella come la risposta definitiva alla leggenda. Ma indubbiamente lo era, una risposta. Alessandro Piccioni, ti ringrazio molto. Ricordo il sito, che è leggendemetropolitane.net, perché fa sempre bene leggerle, conoscerle e difendersi anche. Ciao Alessandro, buona domenica, grazie. Anche te. E do la risposta a questo personaggio che, secondo una leggenda metropolitana, la Finlandia avrebbe per decenni censurato proprio perché non indossava i pantaloni. Era proprio Paperino, e molte sono state le risposte giuste. Il riposo del guerriero. Eccoci qui 11:17. Allora, volevo fare un esperimento con voi, fare una sorta di chiamiamolo oroscopo, insomma, predire, fare in modo che tutti i mali che vi affliggono, se ci sono, possano andare via per sempre e rendere la vostra vita assolutamente fortunata. Per cui avete bisogno di 7 carte da gioco. Questo era quello che volevo farvi fare. Prendete in mano le 7 carte da gioco e seguite le mie istruzioni. Tenetele coperte, quindi a faccia in giù, non dovete vedere assolutamente il valore delle carte, e cominciate a mischiarle. Quindi fatelo, mischiate le vostre 7 carte da gioco. Adesso che le avete mischiate, guardate l'ultima carta del mazzo. Quella sarà la vostra carta fortunata, ok? Quindi se riusciremo a fare in modo che questa carta resti sempre nelle nostre mani, vuol dire che avrete una vita fortunatissima. Mi auguro che sia così. Quindi avete mischiato le vostre carte, avete visto l'ultima carta, quella è la vostra carta fortunata. Segnatevela, fate in modo di non dimenticarla assolutamente. Bene, a questo punto voi aprite il mazzo a ventaglio, ok, e prendete la carta che c'è nel centro, quindi siccome sono 7 carte è la quarta carta, prendete la carta che c'è nel centro e voltatela a faccia in su. Quindi adesso voi avrete le vostre 7 carte con 3 carte a faccia in giù, una carta a faccia in su e 3 carte a faccia in giù. Fatto? Bene. Prendete le carte che sono sopra quella a faccia in su e le mettete sotto. A questo punto voi avrete una carta a faccia in su e le altre 6 carte a faccia in giù. Bene, adesso immaginate che la carta che c'è a faccia in su sia la carta che rappresenta i peggiori mali dell'umanità, tipo le guerre, la cattiva sorte, tutto quello che fa male. E voi adesso gettatela via come per gettare via le guerre. Avete fatto? Bravi. Avete 6 carte coperte in mano adesso. Prendete la prima carta e mettetela sotto al mazzo. Questo perché è il tempo che passa. La prossima carta che avete sopra è un'altra carta che rappresenta le calamità naturali, per esempio i terremoti, gli uragani, le epidemie. Liberiamoci anche di quella, quindi prendete la carta e buttatela via, lontano da voi. Siete rimasti con 5 carte in mano. Il tempo passa. Quindi prendete la prima carta e mettetela sotto al mazzetto. Adesso però dobbiamo mettere il caso, perché sapete, la fortuna è una cosa, però appunto poi c'è il caso e per ognuno è diverso. Quindi adesso decidete voi. Prendete la prima carta del vostro mazzetto e mettetela in mezzo alle altre, dove volete, ma non sopra o sotto, basta che sia in mezzo. Poi prendete una o due carte, scegliete voi, assolutamente come volete voi, e le mettete anche quelle in mezzo al mazzetto. Ok, prendete la prima carta che avete nel mazzetto, mi raccomando, fatelo. Immaginate che quella rappresenti tutti i mali legati alla persona, quindi la salute, le malattie, queste cose. E liberatevi anche di quelle, via la carta. Vi sono rimaste 4 carte in mano. Prendete la prima carta, facciamo ancora passare il tempo e mettetela sotto. Ora pensate ai problemi quotidiani, soldi, il lavoro che manca, ecco, anche quella parte, liberatevi, quindi prendete la prima carta del mazzo e buttatela via, ci siamo liberati anche di quello. Avete ancora 3 carte in mano, prendete la prima carta, fate passare il tempo, quindi la mettete sotto. E liberatevi anche dalla carta che c'è in alto, perché quella rappresenta le invidie, e quindi toglietela via. Avete 2 carte, facciamo passare il tempo e mettiamo la carta che c'è sopra sotto, e succede che buttiamo via anche quella, che sono le cattiverie. Vi rimane una carta soltanto in mano, e se è la carta che era la vostra carta fortunata, vuol dire che tutto andrà bene. Ecco, questo è il risultato del vostro gioco, chiamiamolo così, nel senso del nostro esperimento. E se la carta che vi è rimasta in mano, vuol dire che tutto funzionerà. Credo che il futuro possa essere molto roseo per molti di voi. Allora, 5 persone si porteranno a casa casa il parte della collana Q&A e vi dico quali sono. Sono le persone che hanno mandato un SMS alle 10.33, alle 10.43, alle 10.53, alle 11.03 minuti, alle 11.13 minuti. Quelli sono gli orari che mi ero segnato all'inizio della puntata, quindi tutte le persone che hanno mandato un SMS proprio in quegli orari o comunque vicini a quell'orario si porteranno a casa, riceveranno a casa i primi 5 volumi di questa collana di quiz che, ripeto, da ieri è insieme al Sole 24 Ore ogni sabato e ogni martedì con soli 10 centesimi in più. Il gastronauta. Ciao Davide Paolini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dove sei? Sono in macchina ma c'ho viva voce, perché dovete ascoltare la polizia. Ecco, no, diciamo che assolutamente. Senti, una delle uscite, la 20ª uscita di questo, di questa collana di quiz dedicata proprio alla cucina e al vino. Sì. Hai qualche quiz da farci sulla cucina o sul vino da proporci? Che oggi abbiamo riempito la giornata di domande da fare agli ascoltatori. Sì, posso farle questa. Il vino rosé viene ottenuto mescolando il vino bianco con il vino rosso oppure in un'altra maniera? Interessante capire quale potrebbe essere la maniera, se fosse un'altra. Non lo so, vediamo gli ascoltatori che cosa rispondono. Beh, sarebbe sufficiente che dicessero no o sì, magari solo questo, insomma. Senti, ma il vino rosé si può anche ottenere con il vino rosso annacquato, no? Ah beh, certo, a tavola si può ottenere anche questo, come no? Senti, volevo parlare di quella tradizione proprio, che è il vino rosso con l'acqua. Vino rosso con l'acqua per dissetarsi un tempo veniva usato molto, specialmente in campagna, su quelle giornate afose. E devo dire che però in questa maniera si rovina sia l'acqua che il vino. Scusami, in questa maniera si rovinano sia l'acqua sia il vino, dicevi, certo. Sì, certo, si rovinano tutte e due, perché insomma, cioè, l'acqua deve avere quel sapore non sapore e il vino deve avere, se tu le annacqui viene fuori una cosa mezza e mezza. Un tempo c'era un vino che veniva chiamato un vinello ed era la prima spremitura in campagna subito dopo la vendemmia. Forse, ecco, quello lì può ancora andare. Ecco, ma non è perché appunto erano dei vini talmente, tra virgolette, imbevibili o particolarmente forti che andavano annacquati per forza, sennò ti stroncavano, o sto dicendo una castroneria? Ma sai, il vino di alta gradazione, anche se lo allunghi, non è che togli i gradi che ci sono dentro, magari togli l'impatto in bocca, ma no, assolutamente non è che lo diluisce, come il caffè. Quando il caffè, tu fai un caffè, dice, molto lungo, in realtà contiene molto più caffeina di un caffè molto stretto. Certo, non l'hai allungato in quel senso, assolutamente, semplicemente ne bevi di più. Senti, vogliamo dare la risposta, cioè il vino rosato in realtà da dove parte? Innanzitutto da uve bianche, uve rosse, o questo è indifferente? Prima domanda. No, parte semplicemente da uve rosse, che vengono vinificate in maniera molto particolare, con un salasso, un metodo, e poi ce ne sono anche altri. È vietato dalle norme comunitarie, il fatto di vino, mescolare il rosso col bianco per ottenere il rosé. Ma qualcuno secondo te l'ha fatto nel passato una cosa del genere? Sì, tanti lo continuano a fare. Ma dai. Tanti che lo continuano a fare, sì. Sicuramente tutti dicono no, però c'è qualcuno che lo continua a fare. Però è vietato, insomma, se magari è una frode in commercio questa. Chiaro. Se viene beccato. Ma c'è un modo per riconoscere il vino rosato fatto in quel modo, cioè mischiando il vino bianco con il rosso? Secondo te dal gusto? Non lo so, cioè, mi domando, perché il procedimento è veramente talmente diverso che dovrebbe dare anche un risultato, anzi dà un risultato diverso. Beh, io non credo che sia molto facile distinguerlo, se non all'analisi. Io credo che sia sufficientemente difficile, a meno che non ci siano dei degustatori professionali, e allora forse sì, uno che degusta spesso il vino probabilmente può percepire qualcosa, però non credo che sia molto facile. Non lo so, può darsi che mi sia capitato anche a me nella mia vita di bere un vino rosé falsificato in questa maniera e non me ne sono accorto. Ecco, faremo una prova, forse bisogna veramente fare una prova a casa, assaggiarne uno mischiato e uno normale, mischiandolo noi, così siamo sicuri, e sentire, se imparare a riconoscere la differenza. Senti Davide, i vini rosati sono tali anche perché le vinacce si lasciano molto poco, è vero o non è vero? Beh sì, si spremono molto poco, certo, le vinacce del quando si ottiene da un vino rosso vinificato in rosé o vinificato in bianco, c'è una spremitura completamente diversa. Ma il problema del colore viene dato dalla buccia. Sì. Quindi il problema è di lasciare o non lasciare le bucce. Tutto lì il problema fondamentale è quello. Perché il colore è dato dalla buccia. Ecco, senti, vabbè, qui comunque gli ascoltatori dicono non è vero che l'acqua non diluisce il vino. Noi parlavamo dell'alcol contenuto, sì. Giusto? Ecco, sì, beh, sì. Certo, l'alcol contenuto. È evidente che se bevi un bicchierone, oddio, se metti tre quarti di acqua e metti un dito di vino, è evidente che viene diluito. Ma se metti mezzo e mezzo, cioè la diluizione è molto minore. Ecco. Io addirittura penso, questo è un fatto medico, sì. Un fatto medico, non so, non voglio prendermi la responsabilità di questa risposta. Ma lo diciamo. Ma credo che con l'acqua, se tu bevi il vino mescolato all'acqua, entri più velocemente in circolo nel sangue l'alcol. Ecco, adesso sentiremo la risposta degli ascoltatori, ma Davide non si prende nessuna responsabilità, eccolo là. No, perché non è un fatto medico, quindi potrebbe essere anche così, completamente inesatto. Se c'è qualche medico in ascolto, va benissimo. Esatto. Ma io posso parlare? Prego. No, dicevo esatto, e ci può anche rispondere con un SMS. Aggiungevi? Aggiungevo che posso fare un altro quiz. Vai. Se il formaggio, ad esempio, può essere utilizzato nei piatti di pesce. Se il formaggio può essere utilizzato nei piatti di pesce come cosa? Come contorno o come condimento? Scusami. No, se... come condimento, per esempio una pasta, sì. Con una grattugiata sopra di pecorino, ad esempio di pesce, oppure il pesce crudo con un tipo particolare di formaggio. Ecco, se si può accostare il formaggio al pesce, che è una cosa che uno dice, ah, ecco, tipo la pasta con le acciughe e metterci sulla grattugiata di parmigiano, dico bene? Ho capito. Io direi di pecorino. Di pecorino. Ecco, certo che tu rispondendo così hai già dato la risposta agli ascoltatori, ma sentiamo loro cosa vorrebbero fare, poi avremo anche la tua. Grazie Davide, buon viaggio, ciao. Fammi sapere. Come no, sicuramente ciao, te lo faccio sapere, ciao. Il riposo del guerriero. È curioso anche come su internet in molti danno la risposta sul il vino allungato con l'acqua, in effetti la gradazione alcolica scende, ma attenzione perché se la quantità poi alla fine è la stessa, se ne breve si assume la stessa quantità di alcol, c'è tutta una formula matematica per cui insomma allungarlo non serve affatto. Detto questo, siamo pronti a giocare. Un mistero in 24 minuti. Dovrei dedicare una puntata soltanto a questo, tra formule matematiche e spiegazioni. Allora, per voi ci sono 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Il numero per partecipare 800 24 00 24. Partiamo da 1000 euro e più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Primo indizio, eccolo qua. Insomma, la Via Rose, Fernanda da Cremona, buona domenica, ciao Fernanda. Ciao. Allora, intanto scusa, rispondo agli ascoltatori che chiedono come si faccia a sapere chi ha vinto i primi 5 volumi della collana Q&A e verrete poi contattati, ecco, quindi non li citerò adesso, ma verrete contattati perché poi controlliamo appunto gli orari e gli SMS. Allora, Fernanda, questo era il primo indizio, la Vienne Rose, canzone particolarmente conosciuta che ci rimanda indubbiamente alla Francia anche. Fernanda, ci sono 1000 euro per te, cosa vuoi fare? Posso sentire un indizio? Sì, scendiamo però a 500 euro. Colpisce un uragano, s'accascia poi stremato e mi alzano la mano che non ha mai picchiato. La vita è proprio ok, lui dice pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri KO. La vita è proprio ok, lui dice pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri KO. Uh. me tra l'altro Vinicio Capossela ricorda tantissimo Paolo Conte. Allora, Fernanda, questa era Vinicio Capossela del Pugile Sentimentale. Sì. Fernanda, siamo a 500 euro. Dunque, questo secondo indizio non mi aiuta. Io avevo pensato prima a quell'italiano che vendeva champagne dannata contraffatto su internet. Vedi, a comprare le cose su internet, no, non è vero, si compra benissimo su internet, però insomma, ovviamente essendo più ampio il mercato, ecco, è più ampio in tutti i sensi, purtroppo. Grazie Fernanda, ciao. Prego. Potrebbe essere giusta la tua risposta, Fernanda, ma la soluzione la dirò soltanto allo scoccare del 24esimo minuto. Albertina, della provincia di Arezzo. Sì, buongiorno. Ciao Albertina, hai risposto a qualche quiz oggi nostro? Ti sei messa a fare i conti delle uova? Li ho seguiti, mi piaceva molto perché sono un'insegnante elementare, quindi mi sono annotata il libro, mi si divertirò quest'estate. Ecco, infatti fallo fare il gioco delle uova ai tuoi alunni, va? Vediamo se riescono, secondo me riescono perfettamente a risolverlo, si divertono i bambini. Più difficile per noi forse, che abbiamo meno dimestichezza con i numeri, siamo abituati ormai alla calcolatrice. Allora, Albertina, cosa vuoi fare? Siamo a 500 euro. A rispondere. Allora rispondiamo, vai. Sì, secondo me è la morte del creatore della Barbie, che aveva dedicato alla moglie ed è avvenuta nel corso di questa settimana, è se vero. Non vado errata. È proprio, sì, proprio così. Barbie, tra l'altro, era l'eliminativo del nome di sua figlia. Sì. E sai perché è nata la Barbie? Ne avete parlato, ma adesso come adesso mi sfugge. Era dedicata alla moglie. Sì, no, perché la aveva... sì, perché la moglie notava che la figlia giocava con delle bamboline che le ritagliava dalla carta, trattandole come adulte. E siccome all'epoca non esistevano bamboline che avessero le fattezze di adulti, le bambole avevano tutte le fattezze di bambini, no? Allora ha detto al marito: ma perché non fai una bambola che possa avere le fattezze di una donna adulta? E così è nata la Barbie, insomma, questa è stata la differenza rispetto a tutte le altre. Tu l'hai avuta la Barbie, Albertina? Devo dire la verità, no, ecco, no, vabbè, e non l'ho neanche comprata a mia figlia perché c'era tutta una contestazione sul creare giocattoli adultisti, diciamo così. Ecco, ma oggi mia figlia piccola, ecco, però ma... poi gliel'hanno regalata, quindi vedi, ho fissato questo mio atteggiamento troppo attento. Albertina, scusa, sono curioso, ma col senno di poi, così, rimarresti su quella linea o alla fine gliel'avresti regalata? Ma penso che dipende dall'uso che se ne fa, per cui se non si eccede nelle esagerazioni va bene qualsiasi cosa, purché sviluppi la fantasia dei bambini. Brava Albertina, ciao, buona domenica, grazie. Grazie, grazie a voi, no? Siete dei compagni veramente ottimi per le mie vacanze in campagna. Ancora grazie per i 24. A te. E tra l'altro, appunto, potrebbe essere anche questa la risposta giusta. Cecilia, la provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Ciao Cecilia. Allora, cosa vogliamo fare? Abbiamo altri indizi per te oppure puoi darci una risposta? Io proverei a dare la risposta. Vai Cecilia. Secondo me è Rosy Bindi che è stata fischiata al convegno delle femministe a Siena. Grazie Cecilia, buona domenica. Grazie. Ciao, siamo ancora a 500 euro, 800 24 0024, Alessandro da Milano, credo. Alessandro. Pronto? Alessandro? Sì. Eccoci qua, ciao. Allora, purtroppo mi hanno bruciato proprio sull'ultimo la storia della Rosy Bindi. Ai ai ai, cosa vogliamo quindi fare? Ascoltare un altro indizio? Ascoltiamo un altro indizio. Scendiamo a 300 euro. Le tue scelte più libere, ma se non indosserò gli stivali da cowboy, disprezzarmi tu non puoi. Donna, mi piace quasi tutto quel che fai. Donna, faccia donna, un corpo senza affascinante sei. Molto se vuoi, tutto non puoi. Donna, faccia donna, di solo sesso non si vive mai. Alessandro, ecco, questo era il terzo indizio. Donna, non conosco il brano. Donna selvaggia donna, Lucio Battisti lo dice anche tante volte. Sì, lo dice anche tante volte, però io non l'avevo mai sentito. Vedi. Nonostante non sia più giovane, non lo avevo mai sentito. Ho un dubbio sull'album, non mi ricordo se era Una donna per amico o Una giornata uggiosa. Forse era Una donna per amico, vabbè, però poi controllerò. Allora, stato un lato B, sicuramente. No, vabbè, era un album, è stato un album particolarmente conosciuto di, e famoso, anche bellissimo, di Battisti. Allora, Alessandro, vuoi darmi una risposta o vuoi aspettare la viabilità? Ci pensi e poi vediamo me la viabilità. Eccoci, così hai qualche secondo per pensarci. Un mistero in 24 minuti. Allora, Alessandro, che cosa vogliamo rispondere? Benissimo, rimaniamo sul tema donna. Eccolo. Parliamo in generale di questo nuovo movimento femminile che sta nascendo, che non ha le caratteristiche del vecchio femminismo e che ha caratteristiche comunque di rivalsa e di ricerca. Certo, e che è trasversale dal punto di vista politico. Trasversalissimo ovviamente. Dal punto di vista politico, non ha una collocazione ideologica come aveva il femminismo, io parlerei di quello. Grazie Alessandro, prego. Buona domenica, ciao. Lisetta da Como. Buongiorno. Ciao Lisetta. Io sono spiazzatissima, ero rimasta a primo indizio. Puoi darci la soluzione o puoi chiedere un altro indizio e puoi fare quello che vuoi. No, vi do la soluzione. Allora, al primo indizio, almeno per ricordare l'avvenimento. Va bene Lisetta, va benissimo. Allora facciamo così, ascoltiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Me voilà, mio amore. Un pugno, ancora un pugno e un altro sullo slancio, ed ecco Black Macigno mi c'entra con un gancio. Donna, smaggia donna, mi piace quasi tutto quel che fai. Allora, la Vien Rose, il pugile sentimentale e Donna, selvaggia donna. Questi tre indizi, Lisetta. Io pensavo ad Allemanno e alla boccia, sonora bocciatura che si beccò per la mancanza di donne. Non ne aveva troppe, ne aveva troppe poche. Grazie Lisetta, buona giornata, ciao. Ma siamo fuori, però ricordiamocelo. Come no, hai fatto bene. Ciao, grazie, davvero. Mimma da Brescia. Eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. Allora Mimma, abbiamo un po' di indizi, tre. Ce ne sono ancora altri da scoprire. Tu cosa vuoi fare? Dare una risposta, ascoltare un altro indizio? È un po' un problema, perché sì, io vi risposto esattamente cosa dovrei dire, l'argomento. Sì, se si tratta di una notizia della settimana oppure di un personaggio, basandoti sulle canzoni che abbiamo ascoltato. Allora, un altro argomento. Scusi, un altro indizio. Un altro indizio, va bene. Allora scendiamo a 200 euro. Sorridendo alla sorte, inceppandoci così. Eccolo qui, questo è un ritrovato Umberto Tozzi, Schiuma si intitola questo brano. Allora, Mimma, sì. Siamo a 200 euro. Sarei tanto contenta perché aspetto tre nipotini dal Portogallo che però leggono volentieri i libri italiani, però non so se riesco a darle una risposta. Proviamoci. Proviamo. La Merkel. Grazie Mimma. Sai che la risposta giusta, magari quella giusta è la tua, però soltanto al 24esimo minuto lo scopriremo. Grazie, ciao Mimma. Allora lei mi richiama a che ora? Beh, se dovessi vincere verrai ricontattata ovviamente. D'accordo. Grazie, ciao, buona grazie giornata. Allora, che bello queste nonne che si occupano e preoccupano dei nipotini. Allora, ciao, sono in viaggio, scrive Diana, e non abbiamo sentito il risultato delle uova. Le mie bimbe stanno calcolando e sono curiose. Allora, Diana, il risultato delle uova, del quiz delle uova, era 119, la risposta giusta. E per quanto riguarda il formaggio sulla pasta col pesce, ci sono molte persone che lo mettono, il pecorino soprattutto, e credo che Davide Paolini fosse assolutamente dell'idea. Per cui, insomma, si può fare, però come sempre poi è il gusto, che se a uno piace, perché no? Cioè, voglio capire, no? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Se una cosa piace, perché non farla? Cioè, se non piace lo fa e basta. Eleonora, buongiorno. Buongiorno. In fatto di cucina ho ragione, no? Se, ti piace, se a te piace una cosa, ti piace e basta. Non è che ci sia il giusto o lo sbagliato, no? Beh, speriamo, diciamo, come in tante altre cose. Brava, allora. Eleonora, non so se tu metti il formaggio sul pesce, magari sì. Non so, diciamo che io non mangio il pesce. Ecco, in generale. Vabbè. Senti, e sull'aglio, olio e peperoncino cosa fai? No, niente formaggio, va bene. Allora, Eleonora, noi abbiamo 4 indizi, siamo a 200 euro e una tua risposta. Cosa vuoi fare? Altro indizio o una risposta innanzitutto? No, perché diciamo che già gli ultimi due mi hanno spiattata un po'. Ah beh, allora, insomma, avrei potuto aiutarti. Proviamo. Io avevo pensato al Tour de France che si concludeva questa settimana, sì, precisamente oggi, diciamo. Sì. Va bene, allora grazie, tra l'altro una risposta che è arrivata anche via SMS. Ciao, grazie Eleonora. Carmen da Cuneo. Ciao. Ciao Carmen, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo 4 indizi già scoperti, 200 euro, che cosa vuoi fare? Rispondere, anche se i due mi hanno spiazzato notevolmente. Comunque voglio rispondere. Ne avevo 4 notizie in testa stamattina, ma mi hanno spiazzato un po'. Tutte. Allora, riascoltiamo i 4. Aspetta, Carmen. No, non voglio riascoltarle perché così do tempo ad altre persone di intervenire. Va bene. Dico la mia, la prima notizia, la prima intervista a Carla Bruni sul fatto che lei era incinta e i suoi commenti. Nessuno l'aveva intervistata prima e comparsa, mi sembra, su Repubblica di questa settimana. Grazie Carmen, buona giornata. Prego. Buona domenica. Ciao. Alberto, dalla provincia di Siracusa. No, Ragusa. Ah, Ragusa, scusami, perdonami. Sì, ma ho aggiunto io delle lettere, credimi, era scritto corretto, sono io che ho letto male. Allora, Alberto. Vabbè, chiediamo l'ultimo indizio, vai. Ecco, scendiamo proprio a 100 euro. Sai che non è mai successo nella storia del credo? Nel mistero? Credo che l'ultimo indizio non sia mai stato ascoltato, ma per te, ecco, c'è sempre una prima volta. Questi sono i Beach Boys, la canzone si intitolava Wendy. Allora, Alberto, i ragazzi da spiaggia, i Beach Boys, per tradurli in italiano. Va bene, io un po' mi ero, col fatto della canzone di prima più, ma poi il pugile, pensavo a qualcosa che ha a che fare con il pugilato. È quasi, quindi, solo per quello, l'ultimo indizio non mi ha aiutato tanto. No, Pensavo a Rosanna Conti Cavini, che è la prima donna che organizza incontri di pugilato. Tipa tosta, quindi. Grazie Alberto, ciao, buona giornata. Okay. Ciao. Io so che Sebastiano da Verona ha la risposta. Ciao Sebastiano. Buongiorno, ciao Stefano. Ciao, vero che tu mi rispondi? Non lo so, è finito anche il tempo. 100 euro. Dai. Dunque, io dico la moglie di Rupert Murdoch, Wendy, che l'ha difeso da un'aggressione. E tu dici giusto, caro Sebastiano. Non era difficile, Wendy era vestita di rosa, infatti, per questo la viene rose. Il pugile sentimentale perché lei gli ha dato uno schiaffo pazzesco, era veramente un colpo. Donna selvaggia donna, perché insomma lei è uscita dalla fila e appunto ha atterrato questo attivista che ha lanciato un gavettone di schiuma. Ecco perché il quarto indizio, e Wendy perché era il soprannome, proprio il diminutivo della moglie di Murdoch. Bravo Sebastiano, 100 euro da spendere su Libreria Rizzoli per te. Ciao, grazie a te. Il pecorino si mette sul formaggio crudo, così dice Paolini, per avere poi la risposta per tutti. Grazie a Giorgio De Luca e Viola Bottoni in redazione, all'assistenza di Alessandro Balia e Paolo Corleoni che è stato in regia. Ovviamente grazie a voi. Ci sentiamo domenica prossima alle 10 puntuali col riposo del guerriero. Buon inizio settimana per domani da Stefano Gallarini. Oh!